Buongiorno signora. Buongiorno. Desidera? Hanno del crescente? Crescente? Sì. Senz'altro, signora. Bene, no, senza, scusi. Dica. No, io penso che in fondo sia meglio il satin, no? Come vuole, satin. Sì. Sì, e lo chiffon? Ah, forse meglio lo chiffon, no? Vuole lo chiffon, prendo lo chiffon. Senz'altro, signora. Sì. Allora del fai. Del fine. E non trova che mi sia meglio? Sì, infatti il fine è una stoffa meravigliosa, una stoffa pesante, una stoffa che veste. Sì. Subito, signore. Oh, e di che colore lo vorrete questo fine? Rosso. Rosso? Mm. Sì. Senz'altro. Sì, perché trova che mi sta bene il rosso, no? Lei il rosso le dona. Difatti, appena l'ho vista, ho detto a quella signora, il rosso lo deve molto donare. Aspetti un momento, eh. Rosso. Ma non un rosso rosso. Un bel rosso verde. No, un rosso un po', come si dice? Un punto di rosso vescovo. No. Signora, noi qui abbiamo tutta una gamma di viola. Viola violoncello. No. Viola controbasso. No. Ah, violetti mamma. Come? Violetta mammola. Ah. Violetta mammola. No, non ci siamo. Vedi, io volevo quel colore. Sa quel colore. Quel colore. Colore cielo al tramonto. Tramonto romano. Rosso piccio. No! È dal piccio da sul piccio. Che stupido, il piccio da sul piccio, sì.